Italia in controluce. Vogliamo credere che ci ami? Bene, allora ci ama male. Non è questo l'amore. Un uomo che ci picchia è uno stronzo, sempre. E dobbiamo capirlo subito, al primo schiaffo. Perché tanto arriverà anche un secondo, e poi un terzo e un quarto. L'amore rende felice, riempie il cuore, non rompe le costole, non lascia lividi sulla faccia. Pensiamo mica di avere sette vite come i gatti. No, ne abbiamo una sola. Non buttiamola via. Benvenuti, oggi 17 maggio, Italia in controluce, abbiamo voluto iniziare con questo monologo molto duro ma molto bello di Luciana Di Tizzetto al Festival di Sanremo, e questa puntata che abbiamo definito così, un mondo civile e quello senza la violenza sulle donne. Lo diciamo oggi perché, come sapete, abbiamo dedicato alla violenza sulle donne in generale, alla violenza, un Radio Day che è iniziato dalle prime ore di questa mattina con servizi editoriali del nostro direttore Fabio Tamburini, i servizi e i reportage di Alessandra Schepisi e di Roberta Giordano, e si culminerà poi con lo speciale di questa sera. Sono storie di donne uccise dai loro ex mariti, fidanzati, compagni con cui hanno condiviso tutto e che non si rassegnano all'abbandono. Le seguono per giorni, mesi, le molestano, cercano di cancellare le loro vite, spesso le uccidono. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omicidio è la prima causa di morte per donne in età tra i 16 e i 44 anni, prima delle malattie, degli incidenti, dei conflitti. Non è una società civile quella che permette la violenza sulle donne. Per questo Italia in controluce racconta oggi la storia delle leggi mancate, o meglio, le leggi che ci sono ma che non vengono applicate, delle promesse mai mantenute, delle risposte tardive della politica e delle istituzioni del paese. E voi cosa ne pensate? 349-238-6666. Ci vuole un'altra legge sulla violenza sulle donne? Bisogna applicare le leggi attuali, quelle che ci sono, e renderle maggiormente operative? 349-238-6666. Siamo anche naturalmente su Facebook, Radio 24 Italia in controluce. Laura Boldrini, ministro presidente della Camera, rifiuta la logica dell'emergenza perché la violenza, secondo lei, sulla donna è una questione strutturale. C'è uno strano automatismo nel nostro paese, secondo il quale se episodi analoghi e gravi si ripetono con una certa frequenza, vuol dire che si deve rispondere con una logica emergenziale. Ed invece nel bollettino quotidiano dell'orrore contro mogli, fidanzati o amanti c'è una violenza stratificata e con radici profonde. Più aumentano i casi, più si dovrebbe ragionare in termini di problema strutturale e quindi di problema culturale. 7 donne su 10... prima di essere uccise avevano denunciato una violenza o avevano chiamato il 118. E allora perché? Perché non sono state protette? Dunque, il più delle volte sarebbe meglio parlare di assassini premeditati e di omissione da parte di chi avrebbe potuto e dovuto tutelare le vittime. Sergio da Milano al 349-238-6666, le donne si devono subito rendere conto dei picchiatori, al minimo sospetto interrompere subito, però nel mondo ci sono anche delle brave persone. Senza i servizi sociali adeguati, senza le forze dell'ordine sollecite, è praticamente impossibile prevenire qualsiasi degenerazione violenta, scrive Guido da Bergamo. 349-238-6666. Il presidente della Cassazione Giorgio Santacroce, per lui le leggi esistono già e vanno applicate, il problema è culturale. Le leggi che impediscono di uccidere, di seviziare, di maltrattare una persona di famiglia esistono già. Il problema è un altro, ed è di cercare di capire perché la coscienza sociale non resti turbata più di tanto da questa violenza inaudita, perché si continui a confinare l'aggressività maschile nel privato, legandola alla sfera personale e alla patologia del singolo, perché i maltrattamenti endofamiliari rappresentano una forma di violenza che risente di un retaggio culturale che tende a minimizzarli, a volte addirittura a giustificarli, riducendo certi comportamenti lesivi a meri conflitti destinati a essere contenuti all'interno delle mura domestiche. Perché, in altre parole, esiste un numero oscuro di questi illeciti domestici, come se la violenza domestica, che guarda caso è la prima causa di morte nel mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni, più degli incidenti stradali, più delle malattie, riguardasse solo il carnefice e la sua vittima e l'intero tessuto sociale non fosse ferito e colpito più di tanto da questa discriminazione di genere, che non tutela, come sarebbe lecito aspettarsi, le donne contro la famiglia violenta. Intanto, mentre arrivano gli sms, mentre parliamo di questa vicenda che è il tema di oggi, è arrivata una notizia importante, l'attendevamo, la Corte di Cassazione in questa ordinanza interlocutoria depositata oggi, con cui dispone di trasmettere gli atti alla Consulta, ha bocciato il cosiddetto premio di maggioranza previsto sia dalla Camera che al Senato con argomentazioni diverse. Stiamo parlando della legge elettorale. Quindi avete sentito il parere del Presidente della Cassazione Santa Croce, secondo cui le leggi sulla violenza sulle donne esistono già, ma bisogna naturalmente applicarle queste leggi, questo è il punto. Stessa identica cosa dice Laura Boldrini. Credo che veramente non ci sia tempo da perdere. I soldi per rifinanziare i centri antiviolenza devono essere trovati. Alcuni mi fanno notare che sarebbe utile introdurre un aggravante per i casi di femminicidio. Altri invece sottolineano che non servono nuove norme, ma un'effettiva applicazione di quelle già esistenti. Allora, se è così, però, bisogna capire dove e perché si inceppa il meccanismo dell'attuale legislazione, perché evidentemente c'è un problema. Si potrebbe dunque immaginare una sorta di monitoraggio dell'applicazione della norma in materia di violenza sulla donna, monitoraggio che non rientra nelle mie competenze di Presidente della Camera, ma che mi farò carico di sottoporre alla competente Commissione Giustizia, che è presieduta dall'onorevole Donatella Ferranti, della quale conosco la sensibilità e l'impegno su questo tema. Intanto però può servire che l'Italia ratifichi la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e, come appunto era stato già anticipato, il 27 maggio andrà in aula alla Camera, e di questo io sono molto orgogliosa, come richiesto dalle deputate di più vari orientamenti politici. Veniamo ai commenti, diciamo, che hanno un senso, perché ce ne sono molti veramente che superano e tracimano il livello minimo della follia. Dovrebbero essere i politici con le leggi prima a pensare alle vittime, scrive un nostro ascoltatore, magari facendo leggi più stringenti, non cose blande. Poi le forze dell'ordine più delle volte sono impotenti, perché alla fine chi decide sono magistrati e giudici. Dopo 20 anni del burlesca, non ci scandalizziamo più dell'uso improprio delle donne. Uso improprio delle donne. Questi sono i vostri commenti. Gli omicidi delle donne in Italia sono in calo da 10 anni, dati Istat, dice Marco, verificheremo. Bene, un buon inizio sarebbe anche per voi cominciare a usare il femminile nella lingua italiana, tipo la ministra, la presidente, l'avvocata, dice Paola. Ma la gente che vedo presume violenza sulle donne, come si deve comportare se poi una donna torna insieme al proprio uomo a costo di subire, scrive Patrizio da Pistoia. E c'è un'altra persona, Alex, che ci ricorda che oggi è la giornata contro l'omofobia, lo stiamo dicendo da stamattina, abbiamo mandato anche una nostra inviata, e dice: inaccettabile che voi lo ignorate. Probabilmente il nostro Alex ascolta poco la radio e parliamo soltanto di femminicidio. E per concludere, c'è chi come Serena ci ricorda che bisogna applicare con fermezza le leggi esistenti, perché le le donne sono lasciate sole, anche le denunce non risolvono il problema. Bene, torniamo nuovamente lunedì, come sempre alle 10.30, con nuovi temi, nuove storie su Radio 24. Un saluto a tutti da Daniele Biacchessi.